lo saprai, che principessa diventerai. Sarà un gran giorno fantastico. Parla con le stelle, son lassù. Chiedi cosa mai ti accadrà. C'è un mondo magico che aspetta te, là nel regno delle bambole. Riga Gian, stringi i sogni, conoscerai la tua storia.